Salva Danaio con Valeria De Rosa. Buongiorno, benvenuti, sono le 12:15, nuovo appuntamento con Salva Danaio. Oggi di che cosa parliamo? Parliamo di banche, perché? Perché accordo antitrust e ABI sui tagli delle commissioni interbancarie, su cui l'antitrust aveva aperto delle indagini, e poi capiremo meglio nel dettaglio di che cosa si parlava e di che cosa si parla adesso dopo queste proposte da parte dell'ABI. Lo faremo con degli ospiti, come sempre in studio con me a darmi una mano, manforte, la collega di Plus Federica Pezzatti, che saluto, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a tutti. E in collegamento telefonico la dottoressa Anna Vizzari dell'Ufficio Studi Economico Giuridici di Altro Consumo, buongiorno e benvenuta anche a lei. Buongiorno, grazie. E il dottor Pierfrancesco Gaggi, responsabile area infrastrutture dell'ABI, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ovviamente l'ho lasciata per ultimo solo per galanteria nei confronti delle colleghe donne. Ci mancherebbe. Prima di venire a noi però e di parlare del nostro tema, del tema di oggi, ancora rapidamente sui mercati per capire che cosa sta succedendo oggi. Lo stiamo dicendo fin dall'apertura, un avvio debole e anche in questo momento comunque in calo e debole per le piazze europee. Parigi cede lo 0,58%. Francoforte lo 0,30%, Londra lo 0,46%, Milano fa leggermente meglio, il FTSE MIB cede uno 0,23%, così come il FTSE All Share. In particolare difficoltà quest'oggi i settori legati all'auto e alle banche in tutta Europa. Diciamo che c'è attesa per alcuni dati macro in arrivo dagli Stati Uniti, che ovviamente danno un po' anche il quadro di come si sta evolvendo l'economia. Torniamo a Milano sul listino principale, Fondiaria Sai, un balzo molto significativo, più 5,67% in questo istante. Fondiaria Sai beneficia ancora di alcune speculazioni, diciamo, su possibile cambio nell'azionariato della compagnia che fa capo alla famiglia Ligresti, lo ricordiamo. Molto bene sta andando anche CIR, più 1,58%, Tenaris guadagna l'1,40 in questo istante. In fondo al listino invece peggior titolo che amplia le perdite è Azimut, meno 2,17%, giù anche il Banco Popolare, meno 1,69%, Prismian cede l'1,37%, Campari l'1,26%. Cambio euro su dollaro 1,38,44 in questo istante. Chiudiamo ovviamente la parentesi legata ai mercati, torniamo a noi, dicevamo, tagli delle commissioni interbancarie, quindi parliamo delle commissioni tra banche. Cercheremo di capire di che cosa si tratta e se questo può avere eventuali ricadute sui clienti, di che genere di ricadute parliamo. Prima però mandiamo la nostra scheda. Le commissioni su pago bancomat, bancomat e domiciliazione delle bollette, rapporti interbancari diretti, costeranno meno fra banca e banca e in teoria di conseguenza anche per i clienti. La novità è stata annunciata nei giorni scorsi dall'antitrust, che al termine di un'istruttoria avviata su possibili intese restrittive della concorrenza ha adottato due provvedimenti vincolanti accettando gli impegni presentati da ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, e Consorzio Bancomat. In particolare la commissione interbancaria Pago Bancomat scende di oltre il 4% sul valore della transazione media per effetto degli impegni presentati dal Consorzio Bancomat. La componente fissa della commissione interbancaria si riduce da 0,13 a 0,12 euro per ogni operazione, mentre la commissione per i prelievi presso gli sportelli Bancomat si riduce del 3,4%, da 0,58 a 0,56 euro. Infine, la commissione interbancaria RID viene tagliata del 36%, scendendo a 0,16 euro e dal 1 novembre sarà azzerata, in linea con le indicazioni europee. Buone notizie anche per le aziende grazie alla riduzione della commissione RIBA, lo strumento di pagamento tra imprese, che viene ridotta quasi del 20%. 20%. E se la maggior parte delle associazioni dei consumatori ha manifestato apprezzamento per questa iniziativa, c'è già chi teme l'introduzione di balzelli sostitutivi a carico della clientela, così come è avvenuto per la commissione di massimo scoperto. Allora, questo è quanto riassunto nella nostra scheda. Io però volevo partire proprio dal dottor Gaggi per fare rapidamente il punto su come erano nate queste istruttorie dell'antitrust, ricordiamo nel novembre del 2009, e come poi invece si è giunti a questo accordo. Grazie, sì, perché questo è un punto al quale teniamo molto e vogliamo sempre precisare questo tema delle commissioni interbancarie, che tecnicamente sono degli accordi fra banche. In realtà siamo sempre stati noi a sottoporli apertamente, esplicitamente, in maniera trasparente all'attenzione delle autorità competenti. Fino a 6-7 anni fa era la Banca d'Italia l'autorità competente in materia antitrust per le banche e lo facevamo con Banca d'Italia. Quando questa competenza è passata alla GCM, autorità garante del mercato, della concorrenza del mercato, e l'abbiamo sottoposta a questa autorità e sempre con l'intento di illustrare, spiegare chiaramente quale fosse il meccanismo sottostante a queste commissioni fra banche e anche la metodologia con la quale calcoliamo queste commissioni. Quindi si tratta di commissioni che negli anni, parto dal 1990 circa, da allora già calcolavamo le commissioni fra banche su un insieme di strumenti di incasso e pagamento, avevamo una metodologia che via via è stata affinata proprio in questo dialogo trasparente con le autorità competenti pro tempore all'epoca, sì. e ultimamente anche con la GCM appunto c'è stata una, avevamo presentato noi degli impegni già 4 anni fa, poi erano scaduti perché erano, come dire, ora tecnicamente non è corretto, ma delle autorizzazioni temporanee che quindi ogni volta che vengono a scadenza ci comportano l'esigenza di riproporre la metodologia di calcolo di queste commissioni e il fatto che l'autorità ce le controlla. Ora, questo è l'aspetto, diciamo, di processo. Sì. Veniamo a noi. Sì, quanto al contenuto, allora queste commissioni secondo noi sono delle commissioni importanti per far funzionare gli strumenti di pagamento. Sì. Perché? Perché sono il modo col quale le banche fra di loro e soprattutto in un sistema bancario complesso come quello italiano che ha centinaia di banche, anziché fare accordi fra banca e banca per corrispondersi delle commissioni, si decidono a livello multilaterale, per questo si chiamano multilateral interchange fees, commissioni fra banche. In realtà l'alternativa che sta emergendo a livello europeo a queste commissioni è che esse siano proprio, diciamo, vietate, eliminate e che a fronte di queste commissioni che vengono tolte ogni banca faccia pagare il proprio cliente, sì, sia esso il cliente impresa nel caso del creditore, sia esso lato debitore, il cliente debitore. Allora, noi a questa logica, noi sia noi banche italiane, sì, come ABI che partecipa poi a vari consessi a livello europeo, ma in generale l'industria europea delle banche, si è opposta, nel senso che nelle varie consultazioni si è espressa negativamente. Non siete d'accordo, però questo è un punto che magari potremmo approfondire anche più avanti, perché poi è una sorta di evoluzione di quello che è il nostro discorso da cui partiamo, perché nella scheda abbiamo sentito molti numeri, si tagliano questo tipo di commissione piuttosto che quest'altra, però ricordiamo che si tratta sempre di commissioni interbancarie, quindi tra le banche. A questo punto il cliente, il cittadino, potrebbe beneficiare prima o poi di questi tagli anche il cittadino oppure no? E questo lo chiedo anche alla dottoressa Vizzari, poi ovviamente tornerò sul dottor Gaggi. Allora, sicuramente guardando in un'ottica positiva potrebbero avere degli effetti anche per l'utente finale, dico potrebbe perché in realtà abbiamo visto anche in passato che riduzioni di queste commissioni poi alla fine non hanno avuto effetto sulle spese, le commissioni che il cliente paga alla banca, soprattutto per quanto riguarda i prelievi bancomat presso banche diverse dalla banca emittente. Sul discorso delle commissioni multilaterali dell'istruttoria avviata dall'antitrust, sull'argomento io aggiungerei anche che l'istruttoria dell'antitrust era volta a capire se in realtà c'era un'intesa restrittiva della concorrenza che quindi impediva dei comportamenti adeguati appunto agli operatori che attivando la concorrenza potrebbero in realtà ridurre queste spese anche per l'utente finale, quindi in realtà l'imposizione di un prezzo spesso impedisce la concorrenza e quindi spesso impedisce il raggiungimento di condizioni migliori per l'utente. Sicuramente questo è un problema per l'Italia anche a livello europeo, nel senso che in vista della creazione di un mercato unico anche dei pagamenti, quindi il SEPA, avere queste commissioni in Italia, e comunque siamo uno dei pochi paesi che in Europa hanno delle commissioni fisse, potrebbe creare anche dei problemi per l'uniformità dei pagamenti a livello europeo. Detto questo, la Commissione, soprattutto come associazione di consumatori, la Commissione che sicuramente potrebbe avere degli effetti per l'utente finale è quella sui prelievi ATM. E da questo punto di vista io comunque direi subito che la commissione interbancaria attualmente è di 58 centesimi, il valore più frequente pagato dall'utente finale è di 2 euro, quindi diciamo che attualmente l'utente finale paga più di 3 volte quanto la banca paga per questa operazione. Si tratta quindi di una spesa che a mio avviso non può essere giustificata dai costi sopportati alle banche, ci sarebbe molto da fare. Allora, poi ovviamente gireremo anche questa osservazione al dottor Gaggi. Io però prima vi voglio ricordare i nostri numeri: 800 24 00 24 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri sms. Vorrei chiedere alla collega Federica Pezzatti se ovviamente quale osservatrice lei, come tutti i colleghi di Plus di questo ambito come anche di altri, se nel momento in cui in passato si sono ridotte le commissioni poi c'è stato un effettivo beneficio per il cliente finale, questo da quanto emerge dalle vostre osservazioni ovviamente passate, da quanto puoi ricordare, ecco. Ma diciamo che nel settore bancario l'esperienza passata non va proprio in questo senso, nel senso che ad esempio ci sono altre associazioni come il Codacons che temono anzi che quando ci siano dei tagli magari si taglino dei costi e anche dei servizi, però poi le banche si possano rivalere su altri costi che il correntista paga. E comunque si ricorda che nell'ultimo, con gli aumenti che ci sono adesso nel settore bancario per i servizi ai correntisti, sempre il Codacons stima che solo per quest'anno ci sia un aumento di 28 euro. In realtà anche altri colleghi in passato hanno fatto notare come anche gli aumenti di obblighi di trasparenza piuttosto che altri oneri che le banche devono assolvere, vengono poi trasferiti, si pensi anche alle commissioni di massimo scoperto, sotto altre voci. Quindi in realtà bisogna guardare poi il conto finale, che come rilevato più volte dalle associazioni e anche da indagini europee è tra i più cari per chi ha un conto corrente in Italia, ecco. Ci fermiamo per qualche istante, la linea al meteo, ma ci ritroviamo tra pochissimo. Le 12:32 minuti, riprendiamo da dove ci eravamo interrotti, però chiamo subito il signor Michele da Pistoia che sta attendendo in linea. Buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno, grazie a tutti voi. Ci dica. Io praticamente fino al 15 luglio scorso avevo tanti, diciamo, bancomat, bonifici, diciamo tutti gratuiti presso la mia banca, no? Dal 15 luglio in avanti mi hanno messo praticamente sia le commissioni su Bancomat che le commissioni sui bonifici, tutti diciamo balzelli che prima non c'erano e dal 15 in avanti... Sempre la stessa banca? Sempre la stessa banca, praticamente prima non li pagavo e dal 15 luglio in poi diciamo adesso me li fanno sempre pagare. Allora, dottor Gaggi, che cosa può essere successo secondo lei? Allora, su questo diciamo che... Ora non so il caso specifico, certo. Quindi ovviamente mi rimane difficile spiegarlo, e tra l'altro neanche nel nostro ruolo, nel senso che come associazione invitiamo sempre i consumatori a fare le scelte più oculate in termini di convenienza delle offerte che tutte le banche fanno, quindi il cliente che adesso è in linea sa benissimo che poi ci sono banche che offrono pacchetti ancora con operazioni gratuite, sì. Quindi il consiglio è quello di fare sempre lo shopping secondo le migliori convenienze. Però c'è anche da tenere presente, questo tra l'altro è stato riportato da vari organi di stampa, tra cui il vostro giornale, insomma, è stato precisato che è entrata in vigore una norma europea che si chiama Direttiva sui servizi di pagamento, sì. Che toglie obbligatoriamente quello che era l'uso dei cosiddetti giorni valuta. Praticamente d'ora in avanti sono vietati i giorni valuta sulle operazioni, tranne che per gli assegni, ma insomma per tutti gli altri strumenti di pagamento, e questo può aver determinato, ripeto, ora io non sono in grado di ovviamente. Può aver determinato che ci siano delle voci che prima erano calcolate in giorni valuta trasformate in commissione esplicita. Ma questo non vuol dire che ci siano dei costi in più o che le banche abbiano approfittato per trasformare le commissioni, o meglio abbiano approfittato per aumentare le commissioni, è che di fatto prima la valuta aveva un costo implicito, adesso che la legge la vieta, proprio perché mira a questa trasparenza, per cui c'è meglio avere delle commissioni esplicite, per cui il cliente le vede chiaramente e può fare delle scelte più oculate. Noi su questo, diciamo, è indifferente da questo punto di vista la posizione delle banche sul fatto che ci siano delle commissioni implicite in forma di giorno di valuta oppure in commissioni esplicite. L'importante è, ecco, tenere presente che i servizi di pagamento, ahimè, come tutti i servizi, hanno dei costi di produzione anche per le banche, intendo dire, e quindi anche prevedono una remunerazione. Ora che la remunerazione sia fatta a singola operazione, a pacchetto, a corpo, eccetera, questo, ripeto, nelle scelte di delle singole banche. E poi nelle opportunità di scelta del consumatore. Allora, dottor Gaggi, prima la dottoressa Vizzari ha sollevato due argomenti, secondo me, che si possono approfondire. Il primo è quello relativo alla commissione applicata al prelievo, e parlo subito di questo anche perché ci è arrivato un SMS di un signore il quale ci chiede proprio a proposito dell'addebito dei 2 euro anche nel momento in cui preleva da un altro sportello, dallo sportello che non è della sua banca. Allora, la dottoressa Vizzari diceva: secondo noi c'è spazio, c'è margine per diminuire questa commissione, visto che quella interbancaria, tra l'altro, viene abbassata da 58 a 56 centesimi, se non sbaglio. Allora, su questo appunto bisogna precisare che la commissione interbancaria non copre tutti i costi del circuito di una transazione di prelievo o di pagamento, copre solo il pezzo della tratta fra banche. Ora, questo significa che oltre al costo della commissione interbancaria, le banche sui due lati dell'operazione hanno poi i loro costi interni. Ora, scusi, lasci dire, un po' come parlare della pulizia complessiva di un appartamento e dei piani delle scale, no? Quindi ognuno ha un suo costo, per il proprio costo per tenersi pulito il proprio appartamento, poi c'è il costo condominiale per tenere pulite le scale, il pianerottolo. Quindi da questo punto di vista non bisogna pensare che ridurre la commissione interbancaria determini automaticamente un abbassamento delle commissioni lato cliente finale. Peraltro pure su questo ci risultano parecchie banche che offrono il servizio di prelievo anche su altre sì. banche gratuitamente. Devo dire che da noi comunque circa l'80% dei prelievi avviene su propria banca, proprio perché generalmente le banche offrono questo servizio di prelievo contanti con questo tipo di pricing, per cui se prelevi presso i miei sportelli non ti costa nulla, se prelevi presso altri sì. sportelli ti costa X. Quindi questo induce, e poi diciamo anche la verità, che di solito il cliente è anche abitudinario, per cui tende ad andare a prelevare dove gli fa comodo, che è lo sportello bancomat sotto casa o sotto l'ufficio, a seconda, no? Poi è chiaro che c'è la volta in cui uno si trova in viaggio piuttosto che a fare gli acquisti al certo. centro, eccetera, e preleva in un altro sportello, e in quel caso utilizza. Allora lì, tra l'altro, posso anche dire che la nostra strategia complessiva, ma anche qui dico non solo a livello ABI ma a livello di settore bancario europeo, è far utilizzare le carte non solo, anzi non tanto per prelevare il contante, che è uno dei mali della nostra società, ahimè, l'uso del contante, quanto invece per fare direttamente i pagamenti. Con la stessa carta si può fare il pagamento, allora il cliente potrebbe abituarsi a usare sempre meno la carta per prelevare i contanti e poi va a spendere un attimo dopo in negozio per pagare, certo, il paio di scarpe, e invece pagarci direttamente il paio di scarpe. Ma lei lo sa che gli italiani poi da questo punto di vista non hanno proprio, come dire, la facilità nell'utilizzo delle carte così come i loro colleghi europei. Comunque insomma stiamo cercando di migliorare da questo punto di vista, gli ultimi dati dicono che cerchiamo di usarle di più, almeno di più rispetto a prima, e questo comunque denota una visione del cliente che forse è anche un po' ancorata al passato. E da questo punto di vista volevo ritornare alla dottoressa Vizzari, perché forse questa opposizione da parte delle banche nell'eliminare le commissioni e per poi far sì insomma che il mercato si apra ancora di più e che ci sia più concorrenza da parte delle banche, denota anche una concezione del cliente come della persona che altrimenti, se non ha una commissione certa dove gli è iscritta, forse non si sa tanto districare in un mercato che potrebbe essere ulteriormente aperto. No, vabbè, questo va benissimo, però intendo dire non è che con le spese che si educa il cliente, cioè intendo dire il cliente si educa in un altro modo, e poi comunque c'è tutta una normativa che soprattutto la nuova, la direttiva sui servizi di pagamento che è stata recepita appunto da poco, come si ricordava, che in un certo senso introduce il criterio di spese che devono essere sempre giustificate dai costi sopportati. Adesso mi viene un po' difficile pensare che la banca, il suo cliente, faccia pagare zero per un prelievo presso il suo sportello bancomat e faccia pagare 2 euro per un prelievo presso uno sportello di un'altra banca, giustificato da cosa? Sicuramente c'è una commissione interbancaria, quindi 58 centesimi, il resto che cosa può essere? È un po' difficile capire quali altri costi la banca possa sopportare, tenuto conto appunto che non fa pagare nulla quando si preleva presso lo sportello della banca stessa. Quindi sicuramente su questo aspetto c'è qualcosa che non va dal punto di vista della trasparenza. Andrea da Reggio Emilia, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei. Prometto che io insegno anche economia aziendale, quindi sono, la materia la conosco abbastanza bene. Infatti mi allaccio a quello che ha detto la signora, perché se è tardi il mio caso vorrei avere una risposta. Io ho un'associazione dilettantistica dove facciamo arti marziali, quindi le immagini, i nostri budget sono ridicoli rispetto a qualsiasi associazione calcistica, ecco. Avevamo appena aperto il conto, ho sentito le spese, il conto era in nero, c'erano poco più di un centinaio di euro sul conto, abbiamo chiuso l'attività. Nel frattempo, in noi ad agosto, è arrivata una bolletta dell'Enel sul RID, sui 200 euro, così che il conto è andato sotto di 100 euro. Sì. Io non ho saputo niente, se non che dopo un mese mi chiama la banca dicendo che il conto era nel rosso. Sono andato a controllare e mi sono trovato oltre 100 euro, 350 euro di spese per commissione di scoperto, 10 euro ogni giorno perché il conto è stato sotto. Allora voi ditemi se una cosa del genere è legale, uno, due, se non sono interessi di strofinaggio mascherati da commissioni, e come si può dire che le banche al giorno d'oggi siano trasparenti. Ho fatto richiesta di rimborso, la prima volta è stata bocciata, ho dovuto fare della confusione su in area, adesso sembra che forse mi ridiano quei soldi lì. Ditemi voi se un sistema bancario che tollera questo può essere concorrenziale, può essere europeo, può essere moderno, oppure se non vede il cliente come al solito come il pollo da spennare. Perché io scommetto una cosa, se io fossi stato Max Mara o una cosa del genere non me l'avrebbero fatta. Allora, signor Andrea, cercheremo di dare delle risposte esaustive. Intanto volevo avere anche un commento dalla collega, perché ha fatto la collega con me in studio, la collega di Plus Federica Pezzatti, perché ha fatto una faccia quando ha sentito 350 euro. Sì, è sì, una bella somma. Forse poteva essere più solerte l'impiegato nell'avvisare, no? Perché se poi io non conosco la situazione. Beh, certo, nel dettaglio, sappiamo che banca è, non sappiamo che... bisognerebbe chiedere appunto al come dottore... mai è stato impiegato tanto tempo per avvisare che il conto era in rosso. Dottor Gaggi, una battuta perché poi andiamo in pausa perché c'è il traffico. Ovviamente questi episodi non fanno troppo bene. Ma guardi, su questo ora tra l'altro entriamo nel campo non più degli strumenti di pagamento, no, certo. Incidentalmente è stata certo. Un lead, però parliamo delle commissioni per lo scoperto di conto, ma non fanno bene, in realtà bisogna vedere un attimo, appunto, è bene anche che il cliente sia sempre consapevole di come vanno usati i conti correnti, quali sono le condizioni che tratta con la banca. Io ora, insomma, salvo che la banca non abbia sbagliato, non si sia comportata male, di cui sarà responsabile. Beh, certo, certamente. Insomma, per il resto è chiaro che il cliente deve anche sapere che se utilizza uno strumento con certe condizioni che prevedono che il suo conto non debba andare in scoperto perché non è stata fatta una istruttoria, magari, e poi invece a un certo punto lo utilizza andando in scoperto e quindi devono scattare determinati meccanismi anche di analisi, di verifica del conto a carico del cliente, questo può comportare dei costi. Quindi l'importante a nostro avviso è che ci sia trasparenza e quindi che le condizioni siano note preventivamente, e questo mi pare che ormai tutte le banche lo facciano con molta chiarezza, anzi semmai qua c'è un tema che si sta aprendo, che ci sembra di grande interesse per il cliente, e che questa trasparenza sia una trasparenza efficace, perché il rischio pure di avere tantissime informazioni è che poi dopo vadano un po' ad oscurare alcuni elementi di più immediata percezione, anche di maggiore rilevanza. No? Certo, anche perché si tratta di norme non sempre poi semplici da capire, da leggere. Certo. E noi su questo, ripeto, vorremmo essere proattivi anche con le associazioni dei consumatori per riverificare questo tema della trasparenza, cioè per evitare che ci siano decine di pagine di contratto di conto corrente da sottoscrivere nel quale magari sono annegati alcuni punti fondamentali e che quindi non emergano sufficientemente chiari al cliente. Quindi su questo massima disponibilità a rivedere quali sono i punti che il cliente, la clientela ritiene preferibilmente più da mettere in evidenza e da monitorare meglio, per cui poi deve essere consapevole. A quel punto, se ha dato un mandato RID per pagare le bollette, deve sapere che se gli arriva dopo due mesi una bolletta e i soldi sul conto non c'erano, o la banca non gliela paga, o se in questo caso anzi la banca l'ha anche pagata, è chiaro che poi deve in qualche modo ripagare anche il costo dell'istruttoria. Ci fermiamo per qualche istante, diamo la linea alla viabilità. Le 12.47, gli ultimi 10 minuti da passare insieme. Pierfrancesco da Roma, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno. Ci dica. Io ho una sola domanda. Prima abbiamo detto che il pagamento per contanti è il male, no? Io vorrei utilizzare la carta di credito, la uso spessissimo, uso le carte di pagamento, però ho un problema. Intanto, voglio dire, noi lavoriamo non solo con grandi aziende, grandi strutture alberghiere, ma lavoriamo anche con i piccoli commercianti. Signor Pierfrancesco, le devo chiedere di abbassare la radio perché si sente malissimo. Ma la radio dovrebbe essere... Forse sì. Non era spenta. Forse, sì, è possibile. Un secondo solo. Allora, stavamo parlando delle carte di credito. Immagino che lei volesse dirci che comunque ci sono delle commissioni... No, ci sono delle commissioni verso i commercianti. Per cui ogni volta che noi facciamo una transazione con un piccolo commerciante, col negozio di scarpe, succede che loro ti guardano strano e ti dicono: guardi, preferisco accettarle in contanti piuttosto che con la carta di credito, altrimenti devo applicare un 4% in più, un 5% in più. Allora, sicuramente il signor Pierfrancesco ha sollevato un tema di cui spesso si è occupato anche Salvadanaio, perché poi è uno dei problemi legati all'utilizzo delle carte di credito, quello per cui in alcuni negozi, in alcuni esercizi viene poi applicata una commissione ulteriore nel momento in cui si esibisce la carta di credito. A volte mi è capitato anche di trovare cartelli in cui si diceva no carte di credito al di sotto di, non so, acquisti per 20 euro. 30 euro, perché insomma per poi per l'esercente era difficile rivalersi sulla commissione, e questo è sicuramente un problema. Però oggi stiamo parlando di una cosa un pochino diversa, anche perché io a questo punto, che mancano veramente pochi minuti, vorrei capire in termini molto semplici e anche con una certa rapidità, se poi davvero il taglio di queste commissioni interbancarie, di quelle di cui parliamo oggi, che abbiamo visto essere numerose di una certa entità, si potranno prima o poi riversare anche sul cliente finale? Se sì, quando? Se no, se addirittura ci saranno dei costi aggiuntivi? Dottor Gaggi, velocemente, perché poi vorrei anche ovviamente tirare all'interno della discussione le due colleghe. Allora, io tendo a dire che su queste commissioni interbancarie l'effetto sulla clientela si vede nel lungo termine. In che senso? In realtà, come le dicevo prima, i costi fra banche è un modo per redistribuire il costo della transazione. Allora, prendiamo il caso della bolletta telefonica o della bolletta del gas, no? Allora, c'è un'azienda che fattura il cliente che usa il gas e che ha un rapporto con la sua banca. Oggi la commissione interbancaria tende a far pagare il costo dell'operazione fra le banche in parte al cliente fatturatore, cioè all'impresa del gas che fornisce il gas, e questa poi tramite la propria banca paga alla banca del debitore, cioè a Gaggi che deve pagare la bolletta del gas, una commissione. Questa è la commissione interbancaria. Ora, a nostro avviso, il fatto di abbassare eccessivamente o togliere queste commissioni, come vuole una certa tendenza a livello europeo, è un danno per i consumatori in mercati non particolarmente evoluti, come per esempio quello nostro. Perché? Perché oggi Gaggi tendenzialmente non paga per l'addebito RID, perché la sua banca, la banca quindi del debitore della bolletta, non fa pagare il debitore, o lo fa pagare per quote estremamente esigue. Di solito tutte gli addebiti RID sono fatti senza costi per il debitore o per importi molto ridotti rispetto al costo della transazione lato banca e debitore. Se andiamo a eliminare questa commissione fra banche, ed è l'assunto della Commissione europea, il debitore della bolletta dovrà pagarsi il costo di tutto il suo lato di transazione. E poi, dice la Commissione europea, a questo punto vai a parlare con il fornitore del gas e trovate tra voi, un accordo, tra cliente fornitore del gas e il cliente utilizzatore del gas, un accordo per farti fare uno sconto, qualcosa, perché utilizzi una modalità di pagamento più conveniente per l'impresa del gas e lì tu hai poi il modo di farti avvantaggiare. Secondo noi il nostro mercato non è ancora non è maturo per questo, questo ragionamento, e il cliente è più tutelato da una commissione fra banche, purché fatta secondo criteri di efficienza, efficientamento graduale e progressivo, certo, di trasparenza, due anni secondo un metodo che tiene presente un campione di banche, solo quelle più efficienti all'interno del campione, eccetera eccetera. Allora, chiarissimo, dottoressa Vizzari, qual è la sua visione su questo? L'unica battuta che mi viene da fare è che, per esempio, se pensiamo ai conti correnti tedeschi che applicano proprio questa procedura, quindi non avere una commissione multilaterale ma una commissione sul cliente, hanno in media dei costi che sono più bassi dei conti italiani, dei conti correnti italiani. Quindi forse probabilmente qualcosa non va nella nostra struttura, probabilmente pensare non soltanto al mercato italiano ma a un mercato veramente europeo potrebbe far del bene anche al consumatore finale. Allora, prima di salutarvi io però volevo lasciare dello spazio alla collega Federica Pezzatti, perché non solo è intervenuta oggi per darmi manforte su questo tema, e per cui la ringrazio, ma anche perché domani Salva Danaio sarà in edicola, Plus sarà in edicola con un'iniziativa davvero importante e come dire molto utile per i clienti, in questo caso possiamo dirlo. Sì, oltre a fare una copertina in cui ci occupiamo delle polizze legate ai mutui e di tutte le problematiche in vista della sentenza del TAR che ha visto l'ABI ricorrere contro un regolamento ISVAP che va verso appunto un taglio dei conflitti di interesse. Cioè, questa settimana abbiamo iniziamo a pubblicare una tabella molto interessante sugli ETF, che sono strumenti molto efficienti per i risparmiatori, e pubblichiamo, diciamo, in esclusiva anche i costi di tutti gli ETF, oltre agli spread denaro lettera, che sono sostanzialmente degli indicatori di liquidità degli ETF stessi, quindi si ha la possibilità di scegliere in maniera più consapevole questi strumenti, che sono strumenti che appunto hanno costi ridotti all'osso, giusto per rimanere in tema di economia anche nel settore del risparmio. Ecco. L'ultima battuta però la voglio dare al signor Achille da Como, che è in collegamento con noi. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Molto rapido, le devo chiedere veramente velocità. Piccolo problema, i pagamenti che si devono fare attraverso, non so, bollette eccetera, presso le banche, non accettano assolutamente nient'altro che contanti. Allora io mi chiedo, se noi facciamo tanto parlare dei pagamenti attraverso denaro virtuale, poi arriviamo in banche, che sono quegli enti, quegli istituti che pubblicano tantissimo questa modalità, e poi non accettano la modalità tanto pubblicizzata. E questa è la mia osservazione. È l'osservazione. Allora, anche se non è un atto di cavalleria, però l'ultima battuta, a questo punto proprio l'ultima, dottor Gaggi, a lei per rispondere al signor Achille. Rapidissimo. Sì. Evidentemente parliamo non so di quali strumenti, perché di solito c'è l'addebito in conto, cioè io quando vado nella mia banca, sì, e devo, certo, pagare qualsiasi cosa, non porto mai il contante, dico addebitatemi in conto. Esistono i bollettini MAV, ora non sto a fare tutte le sigle, perché, certo, sono i RAV, i MAV, i RID, eccetera, sono tutti strumenti proprio per evitare il pagamento in contanti, e si chiede l'addebito in conto. Ma io approfitto a questo punto della parola rapidissimamente per dire all'altro Pierfrancesco che hai chiamato prima, che non bisogna farsi scoraggiare, diciamo così, dai commercianti qua per utilizzare le carte. La controprova, guardate, non sta nel fatto che facile, quando avete le carte, a un certo punto dire ma io veramente non ho il contante, me l'accetta comunque? E allora di solito a quel punto il cliente, cedono, il commerciante si convince facilmente. Grazie, allora, grazie al dottor Pierfrancesco Gaggi, responsabile area infrastrutture dell'ABI, grazie alla dottoressa Anna Vizzari dell'Ufficio Studi Economico Giuridici di Altro Consumo, grazie alla collega di Plus 24 Federica Pezzatti per essere stata con noi, in regia grazie a Filippo Aureggi, in redazione grazie a Gaia Romani. Salva Danaio torna lunedì.